Let's groove.

gueule. Let's dance. Le son de synthé que j'aime pas, c'est ça. Et si tu veux foutre la merde, tu fais ça. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Rasta bitch, viens on fait du reggae bitch. Fais des maticots, attention là. Là j'arrête parce que lui il est bon à la guitare. Great guitarist, fais des maticots. I have a good. Comment dire, des souvenirs. Attends. Y'a pas de problème, attends. Ladies and gentlemen, beware, there is a very good guitarist. I'm gonna to dinner. No, Esmeralda, Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Yes. Fait des maticots. Vista. Bon appétit. Il n'y a pas de problème. Bon appétit. Ciao. En Italie, on dit ciao. Ciao. Grazie a tutti, mi sono divertito molto, vi auguro una buonissima serata. e buon appetito. Ringrazio tutti, mi sono divertito molto, vi auguro una buonissima serata e buon appetito. Si sa? Comprendo? Siete davvero persone fantastiche e spero di vedervi presto con voi è già più rilassato che su Ilo Abluce. Oh, sei passato. Vous êtes vraiment des gens super. Merci, mi ha offensé. Siete davvero persone fantastiche e spero di rivedervi presto con voi è già più rilassato che su Jamulus. Siete davvero persone fantastiche e spero di rivedervi presto con voi è già più rilassato che su Jamulus. Voilà. Allez, bye bye.